disteso in erba, no, non starò compresso nell'attimo, sarò un angelo che non volerà. È come destarsi, ma non dormirò tra urla sognanti che si inseguono, ma non cambierò. E tu ti tradisci per quello che sei. E tu non ti accontenti mai. Disteso in erba, no, non starò compresso nell'attimo, sarò un angelo che non volerà. O è come destarsi, ma non dormirò tra urla sognanti che si inseguono, ma non cambierò. E tu ti tradisci per quello che sei. E tu non ti accontenti mai. E tu ti tradisci. E tu